Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Eccomi qui, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, Roberta Giordano con voi, come sempre, per raccontare la giornata, come è stata adesso che si sta chiudendo. Devo dire, è stata una giornata dominata sì dalla politica, ma per una volta non dalla politica italiana. C'è questa volta la Francia che ci surclassa come primo piano per la politica, nella persona di François Hollande, il Presidente della Repubblica. Diciamo invischiato, autoinvischiatosi meglio in questa presunta, si usa ancora questo aggettivo per il momento, questa presunta love story con una attrice e produttrice francese. E oggi c'era la sua conferenza stampa, doveva quindi fare questo incontro pubblico e ci si aspettava naturalmente che rivelasse qualcosa, facesse un mea culpa oppure comunque insomma la sua autodifesa principalmente doveva essere, anche se doveva parlare di economia e di altri argomenti. Invece tra le cose principali che ha detto sin dall'inizio, ha detto produrre di più e meglio è il problema principale. Insomma, si è capito che voleva un po' glissare. Infatti poi diciamo ha sintetizzato un po' tutta la vicenda dicendo: questa è una storia privata, non ne parlo adesso, e poi se la mia compagna sarà ancora la premier dama, non lo dico adesso, lo saprete nei prossimi giorni. Quindi questa è stata un po' la conclusione. Poi ne parleremo naturalmente di questo argomento, ne potete parlare anche voi di questo e degli altri temi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, effettonotte_Roberta Giordano, oppure ai messaggi SMS al 349 238 6666. Ma quindi cominciamo a vedere quali sono stati i fatti principali della giornata. Appunto, cominciando dalla vicenda di Hollande e della sua presunta storia d'amore con questa amante, dice un momento doloroso, dice lui nell'attesa conferenza stampa, e poi, come vi dicevo, vicenda privata, non ne parlo qui adesso. Polemiche che riguardano la Lega. Sulla Padania una rubrica sugli appuntamenti della ministra Kyenge e insorge il Partito Democratico. Marò, missione di gruppi parlamentari di Camera e Senato in India a New Delhi. E poi la terra dei fuochi, arriva l'esercito, militari e Napoli a Caserta in azione contro le comafie. Per il calcio Seedorf parla in Brasile e parte pronto per la panchina del Milan. Domani arriva Linate alle 17.30. Partiamo quindi dall'estero, ovviamente dalla Francia, per la conferenza stampa di un Hollande, il presidente francese, oggi tesissimo tra economia e soprattutto questioni personali, il presunto flirt con l'attrice Julie Gayet, vicenda per la quale la compagna Valérie è finita in ospedale, probabilmente per uno shock. E sentiamo una parte di questa sua conferenza stampa. Ni le lieu. Ni le moment, dice Hollande, sentite, non è ni le lieu, quindi né il luogo né il momento, né il momento per affrontare questo argomento, ma comprendo, dice, la vostra domanda, sono sicuro che voi comprenderete la mia risposta. Ognuno nella sua vita personale, dice, può attraversare dei momenti duri, difficili, sono dei momenti dolorosi, ma ho un principio, dice lui, un principio. Ed è che le questioni private si affrontano in privato, cioè in una dimensione intima, insomma, rispettosa di ognuno. In questo modo quindi Hollande ha risposto alla prima domanda rivolta dai giornalisti dopo aver parlato di economia e di crescita nella sua mezz'ora di intervento, insomma ha così un po' liquidato questo tema. Non ha dunque Hollande chiarito i contorni di questo triangolo amoroso che lo vede coinvolto. Se non risponderò ora lo farò, dice, prima del viaggio previsto negli Stati Uniti, così avrebbe chiarito. Poi ne parleremo, mi piacerebbe sapere anche le vostre considerazioni su un fatto che ricorda, rievoca forse questioni italiane ma anche in un modo diverso. Restiamo all'estero, ci spostiamo però a Città del Messico, dove in visita il presidente del Consiglio Letta. L'apertura del mercato e le riforme interne sono fondamentali, le privatizzazioni sono parte di un percorso che necessita di un impegno, ha detto Letta. In spagnolo dice, si dice compromiso in spagnolo, ma non è una bella parola però in Italia. A proposito di politica, di priorità, per esempio vedevo adesso un'agenzia di Renzi, di una dichiarazione di Renzi, che dice la prima priorità è il lavoro, non si mangiano le riforme, anche se finora ha spinto anche sempre lui sulle riforme. Restiamo in Italia, l'ex capogruppo del PD all'Assemblea regionale siciliana Antonello Cracolicci ha ricevuto un avviso di garanzia dalla Procura di Palermo e riguarda l'inchiesta sulle spese dei gruppi parlamentari. E ora una vicenda che ha scatenato molte polemiche, riguarda ancora i leghisti da una parte e la ministra Kyenge dall'altra. La nuova rubrica della Padania, il quotidiano della Lega, ha subito suscitato forti polemiche politiche. La rubrica si chiama Qui Cécile Kyenge e riporta gli incontri pubblici del ministro dell'integrazione. È stampata in fondo al giornale a fianco dell'elenco degli appuntamenti degli esponenti del Carroccio, qui Lega Territorio. Secondo il senatore del PD Roberto Kocianczyk, questa pubblicazione è gravissima ed è un'istigazione a contestare il ministro. Ma il direttore della Padania, Aurora Lussana, si difende. I nostri lettori, sostiene, hanno visto che in questi 9 mesi la Kyenge non ha prodotto alcun provvedimento in Consiglio dei Ministri e in Parlamento. Vogliono essere informati sulle sue iniziative. Kocianczyk invece parla di intimidazione. Attaccare personalmente il ministro Kyenge, forse proprio scendere gli ultimi gradini verso, come dire, la zuffa al posto della politica. Ma la stoccata finale all'iniziativa leghista arriva dallo stesso ministro Kyenge. La Padania Chi ha risposto ai giornalisti che le chiedevano un commento sulla questione. Paolo Panceri, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Poi, come vi dicevo, ne parleremo direttamente con la direttrice della Padania, dovrebbe tra poco rispondere al telefono. Notizie queste che arrivano nel giorno in cui c'è una piccola rivoluzione che sta riguardando anche il calcio, con Seedorf, Clarence Seedorf in rosso-nero, e così anche l'Italia il primo allenatore di colore. Io sono nato pronto, ha detto Clarence Seedorf alla chiamata del Milan al posto di Allegri. In questa affannosa giostra, che non basta certo a risolvere tutti i problemi della squadra, l'olandese dovrà essere pronto anche a una cosa sgradevole, cui forse non ha ancora pensato. Quale? Il razzismo congenito del nostro calcio, sempre in agguato quando si tratta di colpire con fredda premeditazione un avversario con la pelle scura. Fischi e bu d'ordinanza finora sono stati riservati ai calciatori, con un abbonamento speciale per Ballotelli, vittima e carnefice dell'ostilità delle curve. Però un allenatore di colore, per giunta intelligente e pieno di carisma, è davvero un'attrattiva senza precedenti per gli imbecilli a tempo pieno. Seedorf, che in campo è sempre stato un modello di sportività ed eleganza, dovrà far fronte, oltre ai tanti guai del Milan, anche a questo vecchio vizio del calcio italiano. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E prosegue naturalmente la tormentata vicenda dei Marò. Di fronte al rinvio del governo indiano della presentazione dei capi d'accusa per i due fucilieri, l'Italia ha deciso di presentare un ricorso alla Corte Suprema indiana. La petizione si è preso punta a scongiurare l'uso di una legge antiterrorismo, il suo act. Inoltre i presidenti delle commissioni affari esteri e difesa di Camera e Senato hanno convenuto di promuovere una missione istituzionale attraverso l'invio di una delegazione rappresentativa di tutti i gruppi parlamentari per visitare Adeli, Salvatore Girone e Massimiliano La Torre. E siamo sulla politica, col dibattito però sulla legge elettorale in corso. Sul fronte dei partiti torna a parlare Renzi in vista della direzione del PD del 16 gennaio, quindi tra 2 giorni, mentre in Forza Italia Berlusconi prova a placare le polemiche interne. Risponde ai tweet dei sostenitori per ribadire la linea già tracciata. Il segretario PD Matteo Renzi conferma che il contratto di coalizione dovrà essere scritto in modo da evitare altre figuracce come quella sull'IMU. E Renzi blocca il nuovo centrodestra sulle riforme. Cioè la proposta che il nuovo centrodestra ha ufficializzato per le riforme costituzionali è una proposta che noi non condividiamo. Noi abbiamo detto fin dall'inizio, nella lettera del 2 gennaio, che per noi il Senato va tolto ogni tipo di funzione elettiva. Questo è un passaggio molto delicato. Nessun rimpasto, il segretario PD continua ad essere contrario. L'idea che uno vinca un congresso e il giorno dopo chieda posti al governo è quanto di più vecchio e stantio possa esistere. Quindi il rimpasto per me, direi per noi, non per me, non è all'ordine del giorno. Se il Premier pensa che alcuni ministri non stiano andando bene, fa benissimo a cambiarli. Su Napolitano invece il segretario nega dimissioni perché bisogna fare le riforme. Intanto sulla legge elettorale il PD sceglierà una delle 3 proposte dopo la direzione nazionale di giovedì. Il Movimento 5 Stelle indirà un referendum online. Renato Brunetta, Forza Italia, si scaglia contro l'irretroattività decisa dalla Consulta. Il nuovo centrodestra chiede con Angelino Alfano che il cittadino scelga eletti e premier. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Interviene per mettere fine alle polemiche interne Silvio Berlusconi. Il Cavaliere chiarisce allora che non c'è mai stata alcuna intenzione di procedere alla nomina di un coordinatore unico di Forza Italia. Figura peraltro non prevista, spiega l'ex Premier dallo statuto interno. Un messaggio rassicurante dunque quello di Berlusconi alla cosiddetta vecchia guardia, preoccupata dall'idea di un Giovanni Toti catapultato dai vertici dell'informazione Mediaset a quelli del partito. Ma il messaggio del Cavaliere non finisce qui. Berlusconi invita infatti esortati i suoi a non avere timore di aprire le porte del movimento alle risorse nuove che si affacciano. Parole queste riprese sempre da Forza Italia, da Romani. Nella ristrutturazione ci vogliono anche forze nuove, facce nuove, quindi a mio avviso è un combinato disposto che va nell'interesse del partito, ma che va anche nell'interesse della necessità di rinnovare una classe dirigente. Il nostro intento, fa capire ancora nella nota Berlusconi, è quello di rilanciare Forza Italia dotandoci di una nuova organizzazione e valorizzando tutta la classe dirigente che in questi anni e particolarmente negli ultimi mesi ha dimostrato di saper condurre straordinarie battaglie politiche. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E intanto resta sotto i riflettori la ministra De Girolamo, che oggi ha reagito alle polemiche degli ultimi giorni. Nuovi atti emergono dall'inchiesta sulla ASL di Benevento che sta mettendo in imbarazzo Nunzia De Girolamo. Fra questi ci sono anche le trascrizioni delle conversazioni con il ministro dell'Agricoltura registrate di nascosto da uno degli indagati, il direttore amministrativo della ASL, Felice Pisapia, intercettazioni abusive i cui contenuti sono in parte già noti, che testimonierebbero i tentativi di pilotare appalti e nomine di cui sono accusati alcuni stretti collaboratori del ministro. A depositarle al Tribunale del Riesame di Napoli è stato il legale di Pisapia, che oggi ha presentato un'istanza di revoca dell'obbligo di dimora a carico del suo assistito. Contro la loro diffusione, De Girolamo, che non è indagata, annuncia un esposto per violazione della privacy, ma intanto monta la bufera politica che la sta investendo. Il PD chiede che riferisca in aula, cosa che potrebbe avvenire già venerdì. La ascolteremo e poi decideremo, fa sapere il segretario democratico Renzi, secondo il quale spetta comunque innanzitutto al premier Letta esprimersi sul futuro dei ministri. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora di nuovo all'estero, in Egitto, dove ci sono state 8 vittime nel giorno del voto per il referendum sulla nuova Costituzione egiziana che emenda il testo varato dai Fratelli Musulmani. Scontri si sono verificati in varie località del paese tra gli oppositori del regime, dei militari vicini all'ex presidente Morsi e i militari stessi. Torniamo in Italia per parlare di inflazione. I dati diffusi oggi fanno registrare un tasso di inflazione medio annuo per il 2013 dell'1,2%, indecisa frenata quindi rispetto al 3,0% registrato nel 2012. A pesare tra l'altro quella che viene definita dall'Istituto di Statistica come la prolungata contrazione della spesa per consumi delle famiglie. A proposito di spese, parliamo di RC Auto, sempre sotto i riflettori. Oggi a Roma l'ANIA, cioè l'Associazione delle Assicurazioni Italiane, ha presentato un rapporto curato dal Boston Consulting sul confronto tra Italia e il resto d'Europa, dove le tariffe sono molto più basse di quelle italiane. Il presidente ANIA, Aldo Minucci, ha spiegato così i motivi a Sebastiano Barisoni. Noi non abbiamo mai negato che i nostri prezzi fossero più alti degli altri quattro paesi. Abbiamo insistito sempre per individuare le cause di questa discrasia di prezzo e finalmente abbiamo cercato di, con questo progetto di studio portato avanti da Boston, di chiarire a tutti oggettivamente quali sono gli elementi che giustificano questa variazione. Il primo e principale è finalmente una approvazione delle tabelle di valutazione delle cosiddette lesioni gravi, che come già il settore aspetta da 7 anni e che doveva essere definitivamente approvato già nel corso del precedente Consiglio dei Ministri e che invece inopinatamente all'ultimo minuto è saltato. Questo fattore è un fattore determinante perché è una delle cause più significative di discrasia rispetto agli altri paesi, perché gli altri paesi hanno valutazioni significativamente più basse di quelle che in Italia sono praticate in base alle decisioni del Tribunale di Milano. E per la mini IMU vi ricordo che ci sono 8 pagine di speciali domani sul Sole 24 Ore, dove saranno illustrate nel dettaglio le procedure, i meccanismi di calcolo, le modalità di versamento e le conseguenze anche per chi non paga. Per chiudere la terra dei fuochi, il governo dà parere favorevole all'impiego dell'esercito per contrastare più efficacemente il fenomeno delle ecomafie nella zona al confine tra Napoli e Caserta. Lo ha annunciato il sottosegretario di Stato alla Difesa Gioacchino Alfano commentando le modifiche al testo del decreto sulla terra dei fuochi. Bene, ci fermiamo qui. Questo è un po' il riassunto della giornata, ma poi vari temi li affronterò con gli ospiti tra pochissimo. E ci sono sempre per le vostre libere opinioni, per i vostri commenti, 2 canali praticamente, la pagina Facebook di Effetto Notte oppure il numero per i messaggi 349-238-6666, e quali ringrazio già sui primi messaggi Susi e Gennaro da Napoli. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Dopo questa sosta per aggiornare chi invece va, vi ricordo, se avete acceso, la radio in questo momento, io vi ricordo quali sono stati i fatti principali della giornata. La vicenda di Hollande e della sua presunta love story, dice, un momento doloroso in questa attesa conferenza stampa, vicenda privata, non ne parlo qui adesso. E poi la Lega, in mezzo alle polemiche sulla Padania, una rubrica sugli appuntamenti della ministra Chieng, e insorge intanto il Partito Democratico. Il caso Marò, missione di gruppi parlamentari di Camera e Senato in India a New Delhi. Terra dei fuochi, l'avete sentito che arriva l'esercito, militari a Napoli e Caserta in azione contro le ecomafie. Per il calcio, Seedorf parla in Brasile, tiene una conferenza, parte pronto per la sua panchina del Milan e domani arriva a Linate alle 17.30. Quindi dicevo all'inizio che la notizia del giorno, che riguarda sempre la politica, per una volta non è relativa alla politica italiana ma a quella francese. C'era oggi l'attesa conferenza del presidente François Hollande e del suo incontro pubblico, che in realtà doveva servire, prima che succedessero le ultime cose, le ultime rivelazioni, doveva servire a spiegare alcuni punti del suo programma, ad aggiornare anche su come sta andando l'azione di governo. In realtà poi c'erano questi 500 giornalisti accreditati all'Eliseo, che venivano da tutto il mondo e che ovviamente si aspettavano un po' anche un chiarimento su questa vicenda, sullo scandalo Julie Gayet, che sarebbe questa attrice, produttrice, con la quale lui avrebbe avuto una presunta love story e per la quale la sua compagna, la giornalista Valérie Terveller, è finita in ospedale da diversi giorni. Insomma, è stato effettivamente un trauma incredibile. E allora vorrei che ci aggiornasse un po' sulle vicende francesi Attilio Geroni del Sole 24 Ore. Ciao Attilio. Ciao Roberta, buonasera. Conoscitore dei costumi francesi. Lui doveva essere il presidente normale, no? Quindi uno anche con la faccia di una persona comune. Normale forse voleva dire anche che insomma faceva le cose senza tanto preoccuparsi, come chiunque, di andare in motorino, di andare la sera a casa dell'amante, dovrebbe essere l'amante. Poi in una casa, tra l'altro, che potrebbe essere appartenuta anche a personaggi malavitosi, insomma, Attilio. Sì, c'è stata una, come minimo, una certa incautela da parte del presidente francese. Lui ha un bel dire ed ha in parte ragione quando parla di diritto alla privacy. Peccato che la privacy di un personaggio come il presidente della Repubblica francese sia un po' meno privata istituzionalmente, fisiologicamente, rispetto a quella di un normale cittadino. Lui ha il diritto, ha tutti i diritti, però ha anche dei doveri, degli obblighi di trasparenza. Questi obblighi sono venuti meno e anche da qui il suo messaggio, che in teoria, anzi nelle origini, doveva essere dedicato a una svolta importante di politica economica, che peraltro lui ha annunciato lo stesso, questo messaggio si è indebolito proprio a causa dell'affaire Julie o Gayet, come lo vogliamo chiamare. Vediamo un attimo se Crozza Ballarò sta parlando per caso di Hollande, perché è un fatto gustoso in effetti. Che cos'è l'Italia? No, c'è mai fatto l'Italia? C'è mai pensato? Che cos'è l'Italia se non un paese in attesa di giudizio, Giova? Altro che metodo stamina, è il metodo staminchia. Ecco, non ho capito. Diciamo che siamo un po' imparentati in questo periodo, Attilio Gironi, anche perché anche il dibattito politico francese in questo momento non è a livelli altissimi, no? No, anche perché poi rientriamo nel solco di una tradizione consolidata. I presidenti della Quinta Repubblica non si sono mai fatti mancare nulla in questo senso, quindi storie di amanti, dalle storie dal mito di Mitterrand, che aveva questa figlia Delphine, come si chiamava? Esatto, come... Mazarin, sì. Vittima, che poi insomma via via col passare degli anni un po' di tabù sono caduti, per cui prima si sapeva ma non se ne parlava. Poi Parigi è una città, avendoci vissuto e lavorato per il giornale 4 anni e mezzo, molto pettegola, quindi le voci corrono prima che vengano in un modo o nell'altro ufficializzate, come nel caso di Hollande dalla rivista Closer, quindi le cose si sanno con un certo anticipo negli ambienti politico-giornalistici della capitale. Senti, a parte, scusami Attilio se ti interrompo, a parte, poi ci ritorniamo sulla vicenda più di costume, anche se come dicevi tu e anche come ha riguardato vari altri personaggi, esponenti politici anche in Italia, insomma quando uno ricopre un ruolo così importante di un'istituzione così alta deve anche, oltre agli onori, anche gli oneri, non puoi avere una vita come chiunque altro. l'altro, no? Cioè devi anche rispettare un po' il ruolo. Ma dicevo, a parte questo, anche la vicenda della sicurezza, il fatto che lui girasse in motorino con questo casco, si infilasse in un appartamento qualunque, che appunto poi sembra debbano fare delle indagini su chi appartenesse questo, a dei corsi, a un giro di malavita, insomma, della Corsica. Dice il paparazzo che l'ha fotografato e che poi ha pubblicato sul Closer che avrebbe potuto benissimo fargli un attentato, aggredirlo, visto che lui dovrebbe essere protetto da alcuni poliziotti, ma questi poliziotti non sono stati in grado né di evitare i paparazzi, i pedinamenti, e anche di, insomma, di metterlo sulla giusta strada, no? No, sicuramente c'è una mancanza anche di senso della sicurezza, perché il paparazzo che l'ha fotografato, così come l'ha fotografato, tra l'altro non ha usato un teleobiettivo pazzesco, e si vede, avrebbe potuto benissimo sparargli, si vede dalla foto. La foto che il paparazzo ha scattato, che è stata pubblicata da Closer, era, non dico a distanza ravvicinata, ma una ragionevole distanza per la quale si sarebbe potuto utilizzare un'arma. Poi il presidente è sempre, ancora prima, io l'avevo conosciuto prima che diventasse presidente, lui andava in giro sempre con lo scooter, solo che adesso, sai, finché era solo segretario del Partito Socialista ci poteva stare, si presentava alle conferenze stampa scendendo lo scooter a tre ruote, la passione dei francesi di Parigi. È chiaro che in questa occasione il capo dello Stato francese, anche se poi escortato, accompagnato, guidato da una guardia del corpo, è abbastanza incauto. Quindi da questo punto di vista è una prima, insomma, lo scooter è di moda, il presidente lo utilizza magari per passare inosservato, in realtà è proprio sullo scooter che lui è stato colto nel segno. E sembrerebbe tra l'altro che di tutti questi giornalisti, centinaia di giornalisti che c'erano alla conferenza stampa, forse nessuno ha premuto, ha incalzato sulla questione sicurezza. Qualcuno forse gli ha chiesto se tornerà con la compagna Valeri, poi cercheremo di capire, lui ha detto. Però possiamo dire che in qualche modo ha ammesso la vicenda, si è detto è un fatto doloroso, ognuno nella propria vita relazionale, affettiva affronta delle prove dure. Ma ancora prima della conferenza stampa, certo che secondo me la missione c'è, il fatto che non abbia mai smentito le dichiarazioni, cioè gli articoli, no? Le rivelazioni di questa rivista, che abbia parlato, detto quello che ha detto questa sera, dice ci sono momenti dolorosi, chiarirò la posizione di Valéry prima dell'11 febbraio, che poi è la data fissata per la visita ufficiale negli Stati Uniti, quindi ha ammesso, fin lì ormai è tutto normale. E quello che è successo prima, il modo in cui è successo, che lascia tutta una serie di dubbi, di interrogativi, soprattutto quando tu vuoi annunciare una svolta politica importante, perché sei come sempre, cioè in questo caso sei il presidente più impopolare della Quinta Repubblica, e quindi devi lanciare un messaggio efficace di svolta, di politica economica, deve essere credibile, la sua credibilità è stata minata. Proprio anche questo volevo chiederti, Attilio, prima di lasciarci, volevo chiederti che ne sarà adesso di Hollande, la Francia come reagirà secondo te? Ma no, la Francia prima o poi, io non credo che ci sarà un impeachment, nulla di tutto questo. Alla fine anche il caso Julie o Valéry verrà metabolizzato, e il problema di Hollande vero poi alla fine e anche del paese, la gente, è quello del rilancio dell'economia. Sappiamo tutti che in questo momento è la Francia il grande malato d'Europa, come lo prima era stata l'Italia e una decina d'anni fa la Germania, ed è alla Francia che si chiede lo sforzo riformista maggiore. Lui oggi si è cavata discretamente, no? Mettendo da un lato tutte le questioni private, ha tagliato corto sulle domande private, ha detto il minimo indispensabile e si è concentrato su questi sgravi alle imprese, 30 miliardi, 50 miliardi di tagli alla spesa pubblica. Ha glissato dovrà, esatto, sulla vita privata ha glissato molto, quindi ha voluto sempre che fosse forte il messaggio di riforma economica. È anche vero che la credibilità è un po' intaccata. Verrà superata, perché poi alla fine tutti i presidenti francesi hanno avuto le loro storie, come dicevamo prima, non si sono mai fatti mancare nulla su quel fronte, e Hollande rientra nel solco di una tradizione ben consolidata. Grazie Attilio Geroni, grazie molte. A voi. E quindi, visto che rientra nel solco Gianluca Nicoletti, insomma, alla fine agli uomini di potere si perdona un po' tutto, mi piacerebbe sapere se alle donne di potere si può perdonare anche di non potere. Che dici, Gianluca? Ma le donne di potere non possono permettersi di avere storie, anche oltre quelle ufficiali, naturalmente. Non ho adesso a mente casi ben precisi. Immaginiamo una Merkel che dovesse avere qualche giovinotto, diciamo, no? Mi sembra piuttosto poco probabile che sia credibile una cosa del genere, innanzitutto. Non voglio fare discriminazioni di tipo estetico. Sì, anche se Hollande, diciamo, non è tutto questo uomo fascinoso, io non riesco a comprendere. Però esiste un problema fondamentale che non attiene la normalità del presidente dei francesi, che poi fa quello, guarda, è normalissimo questo, fa quello che fanno i geometri, i ragionieri, i commercialisti, gli avvocati. Sì, sì. C'è una sorellina con una ragazza più giovane, la moglie, Valérie stessa, compagna, sì. L'ha divisa a metà con un ministro di Sarkozy per un bel periodo in cui lei era indecisa di stare con Hollande o stare con questo ministro, quindi è una persona abbastanza abituata al travaglio amoroso, chiamiamolo così, quindi se ne farà una ragione anche lei, penso che anche la materia passerà. Dicevo, qua si conferma in realtà quello che è un assioma cosmico che vale per tutti gli umani. La vicenda Hollande è più che una vicenda riconducibile alle note vicende nazionali di Bunga Bunga e via dicendo, che è tutt'altra articolazione e tutt'altra storia. La riporto alla più basilare maniera in cui viene rappresentata l'orripilanza amorosa nella commedia di genere, anche nella commedia italiana. Fanno in mente quei film con Vino Banfi, con Bombolo, quel gran pezzo dell'Ubalda con il Fenech. Sì, sono donne bellissime, appariscenti con uomini detestabili, orrendi, brutti, grassi. Cioè, nessuno dice che Hollande c'ha capelli tinti, orribile, con quei capelli tinti corvini, come quei barbieri di paese negli anni 50, e con la gomina argentina che tinge di nero, capito? Una cosa terribile, capito? Allora dicelo tu, Gianluca, perché le donne, qualcuno dice, sai, le donne, perché qua dove c'è il potere, dove ci sono i soldi, no, è proprio così, le donne invece... Forse... Non credo che sia il potere, guarda, perché un potere lambito in maniera così clandestina non ti porta a nulla, a meno che lei non mirasse a diventare una terza premier dame, non cosa gliene sarebbe mai venuto, così. Perché le donne sono generose, le donne hanno una capacità di trasformazione del ranocchio umano che è ogni uomo in un principe azzurro, e probabilmente trovava in lui delle qualità. Era affascinata dal fatto che venisse con la vespetta, con il casco in testa, con il poliziotto che gli portava i cornetti la mattina quando l'aveva ben stancato, capisci? In fondo, a me sta simpatica questa donna, simpatica, mi fa una grande tenerezza, anche un pochino di pietà. Guarda cosa caricava, guarda le foto di questo personaggio, che è, capito? E che in quel momento lei probabilmente era affascinata dalla storia d'amore, nella casa del malavitoso, tu pensa, con tutti i segni nascosti e degli orribili intrallazzi saranno passati, arrivava lui col motorino, pensa, tutto infreddolito, adesso fa freddo, arrivava ghiacciato, pensa, con il casco, il cappottino tirato su. La maglia della salute probabilmente. Sì, con le scarpettine lucide, arrivava lì magari mezzo bloccato, lei gli togliava la cintura gibot, gli faceva il massaggino, lo scaldava, diceva quanto sei bello, quanto sei forte, che eroe che sei, mio presidente, e lo faceva felice. I francesi sono star contenti, tutto sommato il loro equilibrio, la compattezza della Repubblica era molto più nelle mani delicate di questa ragazza che nelle possibili guardie del corpo avrebbe potuto salvaguardare la sua sicurezza quando andava a farsi questa innocente passatina notturna, poi sai che avrà mai fatto, ma ci vogliamo prendere in giro, dai, andava lì, si sfogava, ha raccontato i suoi problemi. Dalle intercettazioni che vengono dalle note vicende analoghe alle nostre latitudini, alla fine sono solo discorsi di questi uomini che raccontano come fossero dei miles gloriosus quella che è il periglio della loro quotidiana battaglia per essere uomini importanti. Ho visto quel ministro, ho visto quell'altro presidente, ho visto quell'altro di Stato. È come uno che raccontasse le sue vicende, ho sconfitto tanti nemici, ho sollevato un peso fortissimo. Devono sentirsi uomini forti, nessun uomo si sente tale se non c'ha una donna generosa siamo d'accordo. Lo certifica col fatto che anche se lui è un mostro, dice, ma no dai, sei il più grande uomo della vita, il più grande uomo della mia vita. Poi certo, sappiamo che è un'illusione, ma di questa illusione, su questa illusione noi fondiamo questo concetto così vago, sfilacciato, che si chiama virilità. Se non ci fossero donne, ci facessero sentire dei superuomini, saremmo ben poca cosa. Viva Gianluca Nicoletti, ve lo ricordo, non c'è bisogno, ma tutti i giorni con Melog, Cronache Quotidiane alle 12.30. Grazie Gianluca, anche tu sei molto generoso e le donne lo sono senz'altro. Ciao Gianluca Nicoletti. Ciao. Adesso leggo qualche messaggio prima della pausa. Vostro Claudio dice, spero nel programma ci siano anche altri argomenti argomenti, le avventure di Hollande bastano e avanzano quelle di Berlusca. Mi pare che di argomenti ce ne siano tanti, Claudio. Poi Mario, sempre più xenofobi, sempre più razzisti per raccattare qualche voto in più. Si riferisce all'argomento di cui poi parleremo, scoppiato con una rubrica sulla Padania. Rosetta, sono fatti suoi, dice di Hollande. Non è detto che una persona dalla morale privata discutibile non possa essere un politico e un economista di valore. Io sarei felice, dice Rosetta, di avere 700 puttanieri in Parlamento se poi facessero le leggi giuste. Se poi Claudio le risponde, no, ce ne sono 770, forse qualcuno meno, il guaio è che sono incapaci anche tanto. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Riprendiamo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dove ci eravamo lasciati. Ancora una scia, una coda della questione Hollande, con ancora uno dei messaggi che sono arrivati sulla pagina Facebook di Effetto Notte, relativo a questa avventura in motorino. Diciamo, Riccardo scrive: sicuramente avrà argomentazioni profonde per giustificare l'evento, ma io dico avranno anche una vita privata queste personalità. Sì, però abbiamo anche chiarito, insomma, un po' quali sono gli elementi in campo. E poi dice: solidarietà per la moglie. Meno male, da un uomo arriva anche la solidarietà per la moglie, che in realtà poi è una compagna, ma evidentemente l'ha presa malissimo, perché in ospedale da qualche giorno e pare ne rimarrà ancora diversi. Prima della prossima ospite vi ricordo quali sono stati i fatti principali di oggi. Per l'appunto la vicenda di Hollande e della sua presunta love story, anche se presunto ormai ci sta giusto così come una delicatezza nei suoi confronti. Dice: un momento doloroso, ha detto oggi nella conferenza stampa, però una vicenda privata, quindi ora non ne parlo. Lega sulla Padania una rubrica sugli appuntamenti della ministra Chieng e insorge il Partito Democratico. Missione di gruppi parlamentari di Camera e Senato in India, New Delhi, per i Marò. E poi per la terra dei fuochi arriva l'esercito, militari a Napoli e a Caserta. E per il calcio Seedorf parla in Brasile, poi subito parte pronto per la panchina del Milan, arriverà a Linate a Milano alle 17:30 di domani. E allora saluto subito Aurora Lussana. Ciao Aurora. Un saluto a te e ovviamente un caro saluto agli amici di Radio 24. Direttrice della Padania. Aurora, insomma, avete combinato, cosa avete combinato con questa cosa pubblicata oggi a pagina 14, poi la penultima pagina della Padania, del giornale della Lega, una rubrica, cioè qui Lega Territorio, dove si parla dei vari appuntamenti, dei prossimi giorni sul territorio della Lega, e dall'altra parte qui Cécile Kyenge, e ci sono gli appuntamenti suoi del 15 gennaio, 16 gennaio fino... Sì, 16 gennaio, i vari orari. Fino al 18, ecco, te lo ricordi bene, fino al 18. Allora, questo ha fatto indignare moltissimo, in particolare il PD, che ha parlato di qualcosa che rasenta l'intimidazione. Allora, mi vuoi dire, visto che tu sei la direttrice, qual era l'intenzione di... Ma da poco più di un anno sono il direttore del quotidiano La Padania e sono abituata a questa gran cassa della militanza antirazzista costituita da questi professionisti dell'indignazione, cioè questa retorica antirazzista che ci colpisce quotidianamente, perché la Lega Nord e il mio giornale, il quotidiano La Padania, ha una linea anti-immigrazionista. Crediamo che l'immigrazione abbia dei costi sociali ormai insostenibili e quindi siamo abituati a questi attacchi. Ma la criminalizzazione che abbiamo subito oggi ci porta però a comprendere a questo punto in maniera inequivocabile che la ministra Kyenge di fatto sia intoccabile, goda di una sorta di immunità razziale, per cui è davvero un intoccabile. Lei è un potente ministro del governo Larghe Intese, noi siamo un piccolo, piccolissimo giornale di opposizione della minoranza di questo paese, quindi facciamo ogni giorno opposizione alle sue politiche immigrazioniste e i miei lettori da tempo mi segnalavano che insomma la ministra Kyenge è in tour, va in giro, in pellegrinaggio lungo e largo per la penisola, facendo questi suoi proclami, perché non ci sono atti del governo della ministra, non ci sono suoi provvedimenti, suoi disegni di legge di iniziativa governativa, non ci sono provvedimenti suoi in discussione né in commissione né in aula, quindi sono 9 mesi che fa questo tour, questo pellegrinaggio, dice la sua sullo Ius Soli, regala le cittadinanze onorarie ai figli degli immigrati, insomma fa questo tour e i miei lettori mi dicono tutte le volte: ma insomma cos'è che fa la Kyenge, dov'è che va, perché va in giro a questi convegni, di che cosa? I miei lettori, diciamocelo chiaramente, sono molto molto attenti alle politiche migratorie. Noi ogni giorno pubblichiamo paginate su la differenza, perché molti immagino anche la Kenji non sanno la differenza fra la Bossi Fini e il reato di clandestinità, la direttiva rimpatri. Noi abbiamo un pubblico di affezionati molto molto competenti in tema di politiche migratorie e quindi potete ben immaginare che la Kenji è ovviamente un ministro che interessa moltissimo i nostri lettori, al di là degli insulti beceri legati alle sue origini. Ecco, allora Aurora, Lucia. No, allora guarda, concludo sì, velocissimo, sì. Abbiamo detto andiamo sul sito del Ministero, Ministero per l'integrazione, non dimentichiamocelo, politiche giovanili, credo che la Kenji. Quindi l'avete trovati lì sui appuntamenti? Assolutamente, sono pubblici, domani sulla Padania metteremo il PDF di quello che trovate sul sito della Kenji. Noi abbiamo pubblicato degli impegni pubblici di un ministro, quindi io mi dimetterei immediatamente se avessi comunicato degli impegni privati, dei dati sensibili, cioè sarebbe veramente un comportamento indegno a livello giornalistico ma anche umano. Sono gli impegni pubblici della Kenji, i nostri lettori vogliono sapere cosa dice, vogliono andare a incontrarla, io l'ho fatto più volte, la Padania l'ha intervistata, Tele Padania l'ha intervistata, sono andato in incontro pubblico quando l'unica volta ho incontrato il sindaco della Lega, il sindaco di Varese Fontana, che insomma ha smontato tutte le sue prediche a favore dello Ius Soli, e quindi ripeto, i miei lettori mi chiedevano di sapere dove va la Kenji. Io l'ho fatto e oggi me ne hanno dette di ogni, hanno quasi intimidito la mia redazione, il PD con questo coro indignato. No, ma ascoltami Lussana, io Aurora, io devo dire sì, che è fuori di dubbio che vari esponenti della Lega a livello territoriale, locale o anche, non, anche nazionale abbiano attaccato più volte la ministra, su questo effettivamente non si può dire di no. Io però sinceramente trovo che questa rubrica, nel senso, qualcuno pensava che l'aveste estratta o rubata chissà dove, dici sul sito, quindi dice non vedo per quello che mi riguarda profili di intimidazione, certo, diciamo è più una provocazione, cioè dire guardate cosa fa prossimamente. Beh, però il suo lavoro poi Aurora che coglie nel segno. Il PD ha strumentalizzato, probabilmente abbiamo gettato del sale su una ferita aperta, la sinistra oggi che difende è una provocazione la vostra, diciamo. Si sono scatenati oggi contro di noi, tu pensa che un parlamentare del PD addirittura minacciato una querela, c'è cioè chi ha minacciato di denunciarci. Il PD poi lo sentiremo un parlamentare del se vogliono la censura preventiva su un giornale, ripeto, dell'opposizione. Ma ha intenzione Aurora Lussana di levarla poi questa, o tutti i giorni ha intenzione di dire dove sarà la ministra Kienge? Allora, se la ministra toglierà i suoi appuntamenti pubblici sul sito pubblico pagato da tutti noi, beh, come tutti gli altri siti pubblici del ministero, ma è una roba pubblica, esatto, quindi se la ministra toglierà la sua agenda pubblica sul suo portale, anche noi toglieremo la rubrica. Io non mi faccio intimidire dal PD, che oggi invece di indignarsi per lo svuota carceri che rimette tutti in libertà, e oggi c'è anche la nostra apertura, domani noi apriamo con svuota carceri, la mafia ringrazia, quindi questa è la nostra apertura, e poi riprendiamo questa vicenda riportando questa storia qui degli appuntamenti del ministro che li abbiamo trovati sul sito, ripeto, e domani ci sarà un'altra novità, tu sai, un altro qui governo interessante che lasciamo la suspense, dici? Sì. Senti Aurora, ma tu sai che la ministra Kienge oggi ha risposto la Padania a chi, e poi ha detto che comunque insomma non si farà fermare nella sua azione di governo, nei suoi progetti, e dice la politica condanni il razzismo perché uccide la democrazia. A proposito di accuse di razzismo, poi ci lasciamo Aurora. Però lei non può, ripeto, invocare un'immunità razziale. No, io l'ho intervistata, no, come Padania e come Telepadania. Le mie critiche feroci sono alla sua omelia filo-immigrazionista. Io credo che nel nostro paese non debba essere approvato lo Ius Soli, credo che il reato di clandestinità debba rimanere. L'immigrazione ha dei costi sociali altissimi e credo che i nuovi negrieri contemporanei vogliano di fatto distruggere anche identità vicine e lontane. Lei ha una nobile origine africana, la conservi, la tuteli, vorrei che l'Europa sia una patria fatta di tante piccole patrie, di tante piccole identità. A proposito di Africa, Aurora Lussana, sì, diciamoci l'ultima cosa, poi devo andare in viabilità. Le famiglie italiane in Congo, che si indignino i pidini per come la Kenji ha abbandonato queste famiglie, che noi abbiamo anche raccontato poi delle loro storie drammatiche. C'erano degli italiani che volevano andare in Congo e adottare dei figli, e lì un'altra, abbandonati a se stesso, si indignassero, sì, per queste cose quelli del PD. Senti, Aurora, l'ultima domanda, proprio sinteticamente, perché poi ci dobbiamo lasciare. Il fatto che Seedorf sia il primo allenatore nero in Italia, al Milan, che cosa ne pensi di questa cosa? A parte che un calciatore, e io sono innanzitutto atalantina, però filo milanista, quindi ecco. Quindi qui sei parziale, credo... allora dipende insomma se rientra un po' nelle simpatie, negli interessi. Ma ripeto, ma l'origine etnica delle persone mi è totalmente indifferente, valuto le qualità umane e politiche in questo caso. Quindi non farà politica ma farà calcio, e visto che sei filo milanista non ti dispiace, ho capito questo. Va bene. È un bellissimo calciatore, quindi guarda. Allora come uomo ti piace anche se, sì, se è di colore. Anche bene, abbiamo visto che Aurora Lussana non ha questo tipo di pregiudizi. Poi vedremo prossimamente, vedremo la sorpresa di domani anche sulla Padania. Grazie, grazie Aurora. Grazie a voi, buon lavoro. Ciao, buon lavoro a tutti. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Le notizie ve le ricordo in pochi secondi in realtà, perché poi continuiamo sull'argomento di poco fa, sulla vicenda della Padania, partendo invece dalla vicenda per quanto riguarda i titoli di Hollande e della sua presunta love story. Oggi ne ha parlato brevemente in conferenza stampa, ma insomma un po' glissato, ha detto una vicenda privata e quindi non ne parlo qui e adesso. Lega sulla Padania è una rubrica sugli appunti della ministra Chieng, che insorge quindi il Partito Democratico, poi sentiremo un esponente tra poco del Partito Democratico. Marò, missione di gruppi parlamentari di Camera e Senato in India, terra dei fuochi, arriva l'esercito. Ci saranno militari a Napoli e Caserta, e per il calcio, lo dicevamo prima, Seedorf arriva sulla panchina del Milan domani a Linate, arriva alle 17.30. E adesso saluto, dicevo, dopo aver sentito Aurora Lussana della Padania, Khalid Chaouki. Chaouki? Sì, Chaouki. Chaouki, buonasera, deputato del PD, coordinatore dell'intergruppo parlamentare sull'immigrazione. Lei ha avuto modo, Chaouki, di sentire un po' le affermazioni della direttrice della Padania poco fa? Comunque, insomma, conosce la vicenda, sì. No? Ecco. Sì, sì, no, le ho sentite, diciamo, oltre alla vergogna di questa provocazione, l'ennesima, l'ultima più pericolosa di tipo razzista, perché... Non stiamo parlando di un ministro qualunque, stiamo parlando di una ministra che ha già subito insulti e offese da parte di esponenti autorevoli. Infatti, questo l'abbiamo detto. Calderoli, certo. A Salvini, che è sottoposta a una protezione di altissimo livello per tutte queste minacce, che oggi appunto subisce questa provocazione indegna. E poi, e mi dispiace perché c'è anche una vigliaccheria, perché è davanti agli occhi di tutti l'intento da parte della direttrice della Padania e di Salvini, che è appunto il mio segretario, che di fatto ha avallato questa operazione, e che spinge chiaramente a, insomma, il popolo leghista a trovare un capro espiatorio facile di fronte a una situazione che troviamo ormai intollerabile. Io insomma ho parlato oggi pomeriggio con la ministra Chieng, ho visto anche le reazioni che ci sono state, e credo che noi non possiamo più accettare questo tipo di propaganda. Si può benissimo confrontarsi politicamente, in Parlamento lo facciamo tutti i giorni, ma nei limiti, e penso che i limiti siano stati ampiamente superati da questo tipo di propaganda. Insomma, se ne sono sentite tante, l'orango eccetera eccetera, però Chaouki, io dicevo anche con la direttrice della Padania che tutto sommato questa rubrica è più una provocazione che non proprio intimidazione, come è stato detto oggi, nel senso che sono segnate le date di dove sarà, per dire ci sono questi appuntamenti, poi uno lo può leggere appunto come dire, ah, cosa fa, non fa niente, fa qualcosa, va in giro per l'Italia, però diciamo forse è un po' da ridimensionare, non il resto, non quello che cui si è detto, i vari attacchi, le aggressioni, gli insulti, però questa cosa forse è meno grande di quanto possa sembrare? Invece credo di no, perché quello che è avvenuto a Brescia anche qualche giorno fa dimostra il fatto che purtroppo non c'è voglia di confronto, ma c'è voglia di insulto, di offesa, e noi lo viviamo tutti i giorni. È ormai un clima pesantissimo in cui chi ha responsabilità politiche deve assumersi delle responsabilità. Si tratta non di una voglia di comunicazione. Perché non mettono le agende di tutti i ministri, allora? È solo il suo. Sì, sì, è chiaro. Appunto, il ministro dell'economia, i ministri che appunto sono anche decisivi per quello che loro chiamano Padania. Qui c'è un chiaro intento di mettere nel mirino una ministra per il suo colore della pelle, per la sua origine straniera, perché simboleggia un cambiamento che appunto rappresenta il fallimento delle ideologie leghiste, che ovviamente sperava in una Italia che appunto grazie a Dio non c'è stata, perché è la storia di questa Europa e dell'Italia, è la storia di un'immigrazione che appunto di cui l'Italia ha avuto bisogno, ha bisogno, e soprattutto di una possibilità di interazione che la ministra Chieng rappresenta perfettamente, di una possibilità di costruire un'Italia dove ci possono essere italiani, nuovi italiani di origine diversa, che però e sono alla pari degli altri. E comunque ha detto che è dritta, insomma, per la sua strada. Io la saluto e la ringrazio, Khalid Shawki, e buon lavoro. Grazie, grazie, buonasera. E adesso invece dobbiamo muoverci velocemente verso l'Europa, perché sapete che il 25 maggio ci sono le elezioni europee, non tanti sanno di questo appuntamento. L'Italia presenta 6 candidature, tra l'altro, per la capitale europea della cultura del 2019. In quell'anno il titolo spetterà appunto al nostro paese come membro anziano dell'Unione e alla Bulgaria come paese invece più giovane. E c'è stata un'iniziativa bipartisan presentata a Montecitorio. Europa 24 notte. Verso le europee. Buonasera, qui da Montecitorio per l'Europa. Questa sera abbiamo con noi il vicepresidente della Camera, l'esponente del PD, Marina Sereni. Buonasera, onorevole. Buonasera a tutti voi. Oggi voi avete presentato un progetto per una città italiana capitale della cultura europea. Ci vuole spiegare? Sì, ci sono 20 città italiane che si sono candidate per il 2019 a capitale della cultura europea. Hanno presentato progetti molto importanti di investimento, di valorizzazione di contenitori, di attività culturali anche rivolte ovviamente al turismo. Queste città hanno avuto una prima selezione, da questo grande elenco di 20 ne sono state selezionate 6, una short list. Si tratta di Cagliari, Lecce, Matera, Perugia, Ravenna e Siena. Ora tutti i parlamentari di tutti gli schieramenti che fanno riferimento a queste 20 città hanno chiesto al governo italiano di valorizzare l'insieme dei progetti che queste città hanno elaborato, facendone un programma nazionale, Italia 2019. Questa idea è stata accolta dall'Europa positivamente perché si considera una buona pratica che non ci sia solo la competizione, c'è una competizione, quindi alla fine una sola di queste 6 città sarà capitale della cultura europea per il 2019, ma tutte le altre possono avere un riconoscimento attraverso un programma di tipo nazionale. La sua città qual è? Ma io sono umbra, quindi la città per cui tifo è Perugia. Perugia ha fatto un progetto che riguarda anche i luoghi francescani, quindi in realtà c'è un cuore che è Perugia, e poi ci sono altri progetti che riguardano in particolar modo Assisi come luogo francescano d'elezione. Ecco, si tratta però di città che sono piccole, no? Quindi non viene messa in competizione Roma, Firenze, Venezia, insomma i nostri classici cavalli di battaglia. Perché? La commissione esaminatrice era composta di 7 esponenti europei e 6 italiani, quindi esperti che hanno vagliato la progettualità delle città, le quali poi si sono avvalse anche di soggetti privati, quindi è una idea di valorizzazione del patrimonio culturale italiano che non si è fermato agli enti pubblici ma ha allargato la rosa. D'altra parte l'Italia è l'Italia dei tanti comuni, dei tanti campanili, e se guardiamo alla cultura nel nostro paese ci sono certo le grandi capitali, diciamo le grandi città d'arte, ma ci sono anche le piccole città d'arte. Spesso gli stranieri, per esempio, che vengono a Perugia, che vengono in Italia, rimangono colpite proprio da città medie e piccole come le nostre in Umbria. Allora ringraziamo Marina Sereni, ricordiamo, deputata del PD, vicepresidente della Camera. Insomma, Corso Vannucci, tanto per parlare di Perugia, contro i Sassi di Matera, ecco. Ma non è un contro, lavoriamo insieme per far sì che sia a Perugia sia a Matera si realizzino delle cose importanti da qui al 2019. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. E grazie Elisabetta Fiorito. Invece adesso grazie a Dario Ricci, che è qui per raccontarci di Sedolf. Tra l'altro poco fa è stato intervistato da una radio brasiliana. Io mi chiedo, ma se era lì fino a due minuti fa? No, Sedolf, sì. Io sono stato intervistato. No, tu sei stato intervistato, apposta, ma se Sedolf era lì in Brasile, perché doveva intervistare te che eri qui dal Brasile invece che se... È per vedere come l'Italia vede il Brasile, tutto un gioco di rimandi, di cose comunque, insomma. Visto che arriva giustamente al Milan. Per Radio 24 che barca anche l'oceano in questo modo. Eh sì, è in arrivo domani alle 17.30, Roberta sbarcherà lì nel giorno in cui il Milan sarà impegnato guidato da Mauro Tassotti per quest'ultima gara nella Coppa Italia contro lo Spezia, proprio qui a San Siro. Inizia, cioè, c'è un supplente per domani? Sì, c'è un supplente, Mauro Tassotti, supplente d'eccezione, perché uno del Milan degli invincibili di Sacchi, a lungo vice proprio di Massimiliano Allegri, e quindi Tassotti a questo brevissimo interregno. Sarà una serata sicuramente particolare anche per lui. E poi sarà il Milan di Clarence Seedorf, che praticamente oggi ha finito di giocare, come calciatore. Sì, perché finora stava giocando nel Botafogo, appunto, in Brasile. E dopo carriera, diciamo, al momento è durato 10 ore, perché poi è iniziata la carriera di allenatore. Quindi, insomma, ma è mai successo questo passaggio così veloce tra giocatore di calcio e allenatore? Cioè... Beh, oddio, così ravvicinato, forse no. È vero pure che, ad esempio, in Inghilterra per molti anni, fino all'inizio degli anni 2000, ancora sopravviveva la figura del giocatore manager, come è stato ad esempio Vialli al Chelsea. Lui per un paio di stagioni è stato sia calciatore sia allenatore, vero. E quindi sceglieva se sostituirsi, mettersi titolare, insomma. Senti, dici, Dario, in questo minuto che ci rimane, che giocatore è, quindi che allenatore potrebbe essere? Intanto l'abbiamo detto prima con anche abbiamo detto con la direttrice della Padania, se aveva qualcosa in contrario, che fosse di colore, ha detto no, anzi, è un bell'uomo, mi piace. Sì, beh, sicuramente personaggio affascinante, perché forte personalità, restio ai compromessi, ma al tempo stesso anche abile politico, e direi che come physique du rôle e come personalità c'è. Tra l'altro, grande ormai conoscitore dell'Italia, perché ha giocato tantissimi anni proprio col Milan, prima con la Sampdoria, quindi c'è come physique du rôle. Vedremo se ci saranno anche le competenze tattiche. Non possiamo esporci, chiaramente, anticipare. No, secondo me sì, è una buona scelta, sì, perché per quelle squadre forse conta più il saper tenere in pugno lo spogliatoio piuttosto che saper disegnare uno schema, ecco. E se lo dice Dario Ricci, ci fidiamo. Grazie, caro Dario. Grazie la fiducia. Noi ci sentiamo tra poco.